già ti grinda in vana spene certo piacere confidi. Urbano non sarà questo tuo dono, assalirò coi brighi la mia crudele, e se non sia che io prieghi quel protervo suo cuore.